Durante le ultime interviste abbiamo sottolineato più volte come il mondo dei giochi sia contraddistinto non tanto da regole a cui attenersi, ma da un rapporto dialettico con le stesse. Una regola può essere ignorata o trasformata a seconda delle circostanze, ma qual è il senso di cambiarne il contenuto piuttosto che impegnarsi a comprenderla a fondo? Esistono diverse ragioni per cui vale la pena cambiare o trasformare una regola, per esempio per consentire la socializzazione tra persone che non si conoscono, permettendo di venirsi incontro, contrattando per così dire sul regolamento, e così facendo creando un gioco nuovo che sia il risultato concreto di una potenziale nuova amicizia, oppure per favorire l'integrazione di persone con disabilità di diverso genere, che altrimenti non avrebbero modo di giocare. Il rapporto del gioco con lo spazio, da questo punto di vista, è molto importante per osservare come, per esempio, i bambini si interfaccino a esso nei loro giochi, e da queste osservazioni magari proporre un nuovo tipo di spazio, che offra nuove possibilità e nuovi stimoli ai piccoli giocatori, per sviluppare la propria creatività, per costruire nuove amicizie e per condividere nuove conoscenze. Radio 110 presenta Bim Bum Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Benvenuti alla sesta puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, la trasmissione sui giochi di 110 Web Radio. Oggi vogliamo dedicarci a un tipo particolare di giochi, i giochi di strada, forse la tipologia più nota e che ci accomuna in gran parte. Lo spazio della strada e del gioco di strada è per definizione uno spazio di incontro e di conoscenza, ma anche uno spazio di creatività. Per questa puntata abbiamo deciso di contattare una giovane designer, Valentina Basso. Valentina è coautrice, assieme a Luciano Tiso, di una bella tesi di laurea triennale intitolata Opla, studio di uno spazio ludico flessibile ed accessibile a tutti, in cui gli autori si sono cimentati nella progettazione di un nuovo gioco pensato per i parchi pubblici e per il quale hanno realizzato uno studio approfondito sul concetto di gioco, sui vari tipi di gioco di strada e sulla possibilità di realizzare un progetto accessibile anche a chi soffre di disabilità mentali, motori o sensoriali. Ascoltiamo dalla voce di Valentina cos'è il progetto Opla e quali sono i suoi obiettivi. Opla è un progetto di uno spazio ludico che, come dice appunto il titolo della tesi, si prefigge di essere flessibile e accessibile a tutti, cioè vuole essere uno spazio gioco che possa essere giocato da bambini che si trovino in qualsiasi condizione fisica, mentale e culturale. Il nostro obiettivo è stato quello di creare un gioco che fosse non solo accessibile, come molte volte si pensa debbano essere i giochi per tutti, for all, ma soprattutto giocabile realmente da tutti i bambini, quindi che sia utilizzabile in autonomia e sicurezza, che permetta la socializzazione e che sia flessibile perché sia nuovo e rinnovato ogni volta e manipolabile realmente da tutti i piccoli utenti. È un gioco all'aperto, sì. Diciamo che l'obiettivo iniziale era quello di creare un'attrezzatura per parco giochi e questo è stato appunto il risultato. Il risultato è stata la creazione di una specie di piazza in cui si sono concretizzati sul piano gli schemi di gioco dei giochi da strada della tradizione, rendendo visibile e tangibile le linee di gioco, gli spazi e quindi diciamo un po' le regole astratte che appunto regolano i giochi della tradizione. Bim Bum Bale Giù! Opla è una vera e propria piattaforma interattiva, cioè una struttura, in questo caso di gioco, che l'utente può sfruttare a suo piacimento per realizzare delle creazioni originali e personali. Si tratta di un'area quadrata e piana nella quale sono tracciate delle linee verticali e orizzontali di diverso colore e di diverso materiale. Queste linee dividono il campo di gioco in aree e in percorsi loges. Le aree di gioco definiscono posizioni e forme che rispecchiano quelle dei più popolari giochi di strada della nostra tradizione, che Valentina e Luciano hanno catalogato in tipologie. Questo catalogo è l'esito di uno studio approfondito sui concetti che implicano il gioco, alcuni dei quali trattati anche nel corso delle nostre trasmissioni. Abbiamo chiesto a Valentina di parlarci di questo studio, da quali necessità è sorto e a quali conclusioni ha portato. Guarda, la motivazione per cui abbiamo trattato il gioco in maniera analitica è semplicemente un'esigenza, diciamo, progettuale da designer, cioè cercare di fare qualcosa veramente innovativo e di allontanarci dagli schemi tradizionali della progettazione dei parchi giochi, che sono un po' legati anche a delle convenzioni progettuali, a delle convenzioni di uso. Oggi siamo io e Luciano, che è stato appunto il mio collega nella stesura di questa tesi, ci siamo detti come fare a fare qualcosa di veramente nuovo e che risponda veramente alle esigenze del bambino che gioca, e l'unica risposta che abbiamo trovato è stata quella di studiare cosa vuol dire il gioco e cosa significa, sia appunto da un punto di vista del bambino e dell'importanza che svolge nella crescita del bambino stesso, sia appunto che cosa vuol dire gioco nel senso di come si manifesta alla fine il gioco. E questa è stata la conclusione, è stata la scoperta dei giochi di tradizione, della strada, come manifestazione, diciamo, più prima, più sincera, più quasi più genuina dell'esigenza del gioco, e appunto è stata una scoperta, è stata una riscoperta, diciamo, da quando ci si giocava da bambini, appunto alla piena consapevolezza della loro importanza e della loro attualità e della possibilità di trasformarli in qualcosa, in un progetto nuovo, di qualcosa di tangibile. E infatti è proprio quello che abbiamo fatto, abbiamo reso, come ho detto prima, tangibili, visibili e reali questi giochi. Bim bum bale giù! Bim bum bale giù, sesta puntata. Parliamo di giochi di strada con Valentina Basso, coautrice della tesi Opla, studio di uno spazio ludico flessibile ed accessibile a tutti. Il problema del gioco di strada è un problema che coinvolge lo spazio, come abbiamo accennato nell'introduzione, e con la creazione di un nuovo tipo di spazio hanno risposto gli autori della tesi al problema di sintetizzare una riflessione più generale sul gioco e sulle sue caratteristiche. Lo spazio nel gioco è il momento principale di confronto tra i giocatori, in questo caso i bambini. Lo spazio si razionalizza organizzandolo secondo disposizioni all'interno di campi astratti, come le file, i cerchi, i traguardi e i cantoni. Nel razionalizzare lo spazio si crea un percorso di conoscenza, un tentativo di inquadrare entro un modello la molteplicità delle opportunità che luoghi come la strada, il cortile e il quartiere possono offrire, e così semplificare le possibilità di relazione anche tra le persone che giocano. I bambini, semplificando l'ambiente secondo le regole di un gioco, imparano a conoscersi l'un l'altro giocando. Abbiamo chiesto a Valentina di parlarci dello spazio e del ruolo che ha svolto lo spazio nel progetto PLA. Ascoltiamo cosa ci ha risposto. Innanzitutto la nostra concentrazione sullo spazio anche qui ha una motivazione squisitamente progettuale, nel senso che dal punto di vista di un designer, di un architetto, ovviamente lo spazio ha questo fascino un po' di manipolabilità, di poterlo toccare, di poterlo regolare, di poterci fare delle cose. Diciamo che è un po' la nostra materia prima. C'è un potenziale di intervento molto evidente per un progettista. Soprattutto, appunto, ricordiamo che la nostra esigenza, una delle esigenze principali, era quella di fare uno spazio gioco che fosse accessibile a tutti, e quindi, diciamo, lo spazio era proprio la materia su cui più facilmente si poteva lavorare. Appunto perché, pensando allo spazio piano, allo spazio gioco senza nient'altro, diventava veramente la piazza dove qualsiasi bambino con qualsiasi esigenza specifica poteva confrontarsi con gli altri. Il modo in cui abbiamo appunto organizzato il nostro spazio anche qua è stato proprio da un punto di vista da designer, da architetto. Cioè abbiamo provato a catalogare i giochi da strada secondo il nostro punto di vista, che è stato quello appunto di ricondurre le regole a delle configurazioni spaziali. Prendiamo per esempio il telefono senza fili, che si riconduce a una disposizione a cerchio, perché tutti i bambini devono disporsi in questa maniera per poter giocare, e così altri giochi che si configurano in questo modo, per esempio anche Mosca Cieca, che sebbene preveda che i bambini siano sparsi sul terreno, diciamo che viene ricondotto ad uno spazio chiuso, delimitato, quindi a quello del cerchio, oppure ad altre configurazioni, come quello delle file parallele, che come appunto può essere il gioco della corsa a coppie o dello schiaffo, oppure quella dei campi opposti come quello dello sparviero. E quindi diciamo che la suddivisione dei giochi in spazi, in configurazioni di spazio, ci ha permesso appunto di rendere visibile e appunto anche architettonicamente manipolabile questi giochi che in realtà sono di per sé molto intangibili, anche perché sempre cangianti, sempre modificabili in base ai giocatori stessi. In bomba le giù! Aver incontrato Valentina nel nostro percorso non è stato casuale o incidentale. Noi di Bim Bum Balle Giù, Così Gioca il Mondo, non crediamo alle coincidenze. In realtà il progetto PLA, di cui Valentina Basso è ideatrice assieme a Luciano Tiso, non si propone soltanto la creazione di un gioco nuovo, uno spazio innovativo pensato appositamente per le aree pubbliche e i parchi gioco. Lo spunto è molto più sofisticato e ci permette di sottolineare, come ci capita da qualche puntata a questa parte, come il gioco sia in realtà una pratica creativa in trasformazione continua. L'idea di OPLA è innanzitutto quella di dare la possibilità ai bambini di creare i propri giochi, e questa idea si ricollega al discorso più in generale che abbiamo fatto sulle regole e sulla loro possibilità di essere manipolate a piacere. Creare uno spazio gioco che in sé contenga il maggior numero possibile di configurazioni dello spazio offre anche la possibilità al bambino di inventare giochi nuovi, basandosi su conoscenze pregresse. Ancor più importante, la possibilità di trasformare le regole facilita l'integrazione di tutti i bambini. Il gioco non diventa così uno schema che discrimina chi non è adatto a rispettarne le regole e le modalità, ma si realizza come un'opportunità di incontro e di unione. Riguardo a questi argomenti, ascoltiamo cosa ha da dirci Valentina nel prossimo frammento della nostra intervista. Nel nostro gioco la possibilità di essere manipolato si realizza nel modo più semplice possibile. Cioè, noi cerchiamo di dare meno vincoli possibili, ma solo dei suggerimenti di gioco. Le regole, gli schemi di gioco che ho detto si concretizzano nella nostra piazza, nel nostro spazio gioco, sono proprio solo dei suggerimenti, possono anche essere letti dal bambino solo come dei disegni astratti, oppure possono diventare appunto degli aiuti nella giocabilità dei giochi. Però appunto tutte queste linee, questi spazi possono essere interpretati come si vuole. Uno degli aspetti del nostro progetto era quello di la possibilità di dare dei cartelloni illustrativi per spiegare ai bambini come poter giocare questi giochi, però ovviamente tutte queste regole non sono vincolanti, anche perché questo gioco non può che essere giocato dagli utenti come vogliono loro. Questa cosa secondo noi è molto importante proprio perché questo spazio vuole essere uno spazio di confronto, nel momento in cui vengono a contatto bambini con esigenze molto differenti. Pensiamo per esempio a un bambino normodotato e a un bambino con una disabilità mentale o fisica, come la cecità o la mancanza di possibilità di correre in autonomia. La possibilità di modificare le regole del gioco è fondamentale, perché in questo modo i bambini possono venirsi incontro e creare delle regole che permettano al gioco di essere giocato realmente e attivamente da tutti gli utenti, perché da quelle poche cose che abbiamo potuto imparare dal gioco, o comunque anche dalle nostre ipotesi, pensiamo che in ogni caso giocare insieme, anche con un bambino diverso, tra virgolette, sia molto meglio che non giocare da soli, soprattutto in una fascia di età che va dai 6 anni in su. E quindi appunto questa è stata la nostra linea guida e il nostro modo di interpretare la plasticità delle regole. Bim bum bale giù! Durante le puntate di Bim Bum Balle Giù, qui a 110 Web Radio, abbiamo più volte sottolineato l'importanza di dare il giusto risalto ai materiali che vengono utilizzati per la fabbricazione di un gioco. Non ci stancheremo mai di dire che l'utilizzo di un dato materiale, di una precisa tecnica di costruzione, ci informa molto più di quanto ci si possa aspettare sulla cultura in cui il gioco nasce e le persone che lo giocano. Ce ne si può accorgere in maniera ancor più evidente quando si prova il percorso al rovescio, ovvero chiedendosi in che modo costruire un gioco che si propone di superare eventuali ostacoli per persone affette da disabilità di diverso genere. Nel caso di OPLA è stato necessario creare percorsi in rilievo per i non vedenti e strutturare il gioco su una superficie piana per facilitare l'integrazione di persone affette da sordità, nonché di facilitare l'accesso per persone con disabilità motorie. La struttura secondo forme geometriche a colori, inoltre, si propone anche di facilitare la partecipazione dei bambini affetti da disturbi cognitivi. Abbiamo chiesto a Valentina a tal proposito qual è stata invece la scelta relativa ai materiali di costruzione. Oltre al rispetto degli obiettivi preposti, Valentina ne ha anche sottolineati i criteri di risparmio e disponibilità, anch'essi di primaria importanza nonostante non direttamente coinvolti nel progetto. Come dire che i problemi teorici prima o poi devono venire a patti con quelli pratici e concreti. semplicemente la scelta dei nostri materiali è stata un po' dettata dalle necessità contingenti. Ricordiamo che Opla è uno spazio gioco che è progettato per essere realizzabile, quindi ricordiamo come ci siano anche dei vincoli legislativi che prevedano l'utilizzo di determinati materiali da una parte, e dall'altra anche vincoli nel senso che deve essere durabile, deve essere realizzabile, eccetera eccetera. L'utilizzo del materiale è quello, diciamo, è una combinazione tra, nel nostro caso, tra cemento, che è un materiale molto facile da reperire e da utilizzare, quindi anche a basso costo, e il materiale che viene utilizzato attualmente per i tappeti anti-shock dei parchi giochi, appunto, che è questo impasto, diciamo, detto in parole povere, ottenuto dalla triturazione dei pneumatici esausti, della gomma esausta. La nostra prerogativa è stata quella di utilizzarlo in un modo diverso e quindi modificarlo in loco per produrre dei percorsi. Quindi in realtà la scelta dei nostri materiali è stata molto contingente e dovuta appunto a varie esigenze che si sono manifestate, che sono state appunto quella delle legislative, della producibilità, dell'economia, sì, eccetera. Eccetera. Il gioco è una realtà in movimento e in continua trasformazione. Le persone sono in relazione con l'ambiente in cui giocano, che interviene direttamente sul tipo di gioco e di giocatori coinvolti. Il gioco è sicuramente un mezzo privilegiato quando si tratta di bambini e di integrazione attraverso la socializzazione. La sfida è quella allora di creare un ambiente ideale per un gioco che riesca a coinvolgere tutti, indipendentemente dalla provenienza o dall'eventuale presenza di disabilità di ogni genere. Rispondere a queste sfide con un progetto concreto si trasforma in un vero e proprio viaggio all'interno delle forme e delle possibilità del gioco. La risposta che Valentina Basso e Luciano Tiso hanno dato al problema nel loro progetto di laurea è stata di mettere in mano ai bambini la possibilità di fare il proprio gioco. Questo perché il gioco non è una realtà trascendentale e immanente, ma una pratica manipolabile e sfaccettata. Di questo aspetto abbiamo già parlato con Andrea Ligabue, con Luca Cerrato, con Valentina Basso, e sicuramente lo incontreremo ancora durante le nostre puntate. Più interessante del gioco in sé può essere cosa le persone fanno del gioco e come lo trasformano secondo le proprie necessità. Si tratta di una nuova frontiera che anche le maggiori case editrici cominciano ad esplorare e probabilmente rappresenta una piccola conquista di consapevolezza in questo vasto e interessante microcosmo umano. Il tempo a nostra disposizione finisce qui. Ringraziamo Carlo in regia e Valentina Basso per la gentile collaborazione. Ricordiamo i nostri contatti www.110.unito.it e cosigiocaelmondo.blogspot.com per riascoltare le nostre puntate e per contattarci per domande e spunti. Io sono Francesco, l'appuntamento con Bim Bum Baleggiù, Così Gioca il Mondo, è per mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su 110 Web Radio. Buonasera. Avete ascoltato? Bim Bum Baleggiù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Baleggiù, Così Gioca il Mondo.